Il diario di Q. 27 luglio 1546. Lutero è morto. Reginald Paul se ne va sconfitto da Trento. L'imperatore vomita bile. Il circolo viterbese e tutti i criptoluterani se la fanno sotto. Il beneficio è scomunicato. Vecchiaia. Forse è solo questo il motivo che spinge a vergare righe che mai nessuno leggerà. Pazzia. Annoto nomi e luoghi. Il cardinale Morone di Modena, il Gonzaga di Mantova, il Giberti di Verona, il Soranzo di Bergamo, il Cortese. Qualche dubbio sul Cervini e sul Del Monte, amici di Paul, ma pavidi questi ultimi, piccoli uomini. Sua Santità Paolo III sceglie i membri del Sacro Collegio con la bilancia, uno zelante per uno spirituale, un intransigente per un moderato. Questa politica di equilibrio ha vita breve, i conti dovranno essere saldati. Paolo III Farnese è un uomo antico, di maneggi, di nepotismo e figli legittimi da collocare nei posti di potere. Ultimo papa di un'era morente, abbarbicato dietro al suo scranno e ai suoi intrallazzi ridicoli, ignaro che quel tempo è finito, che s'avanzano nuovi soldati, quaggiù, come nelle terre del nord. I santi, predestinati di Calvino, commercianti votati alla causa della fede riformata e del loro Dio terrificante, gli uomini dell'Inquisizione, zelanti, inesorabilmente devoti al loro piccolo e meschino compito di poliziotti ligi al dovere, pignoli raccoglitori di informazioni, voci dell'azione. Ignazio di Loyola e il suo ordine di soldati di Dio, la Compagnia di Gesù, Ghisleri e i nuovi domenicani, e dietro a tutti Gianpietro Carafa, l'uomo del futuro, settantenne incorruttibile ed efficiente signore della guerra spirituale, della battaglia per il controllo degli animi. E io nel mezzo. Anch'io tra coloro che hanno pagato il prezzo del tempo, degli eventi che hanno vissuto. Lutero, Münzer, Mattis. Non rimpiango gli avversari lasciati sul campo, ma colui che li ha fondati, il me stesso di allora. Oggi m'è concesso un Paul, pio letterato che crede Dio voglia essere servito con onestà. Lui e i suoi amici non sanno cos'è la vera fede. Non hanno mai dovuto provare il sacrificio degli altri prima che di se stessi, e di se stessi attraverso l'annientamento degli altri. L'omicidio, sì, lo sterminio, il tradimento della buona fede. Münzer, gli anabattisti e chissà quanti. Questa maledetta buona fede, quanta innocenza in quella follia. Quanto spreco. Ma la maggior presunzione di innocenza è davvero questa, quella che si cela dietro la penitenza più facile, dietro l'onestà. E ci tocca in sorte ancora un Tommaso Moro, un Erasmo, un Reginald Paul. Folli idioti, pronti a morire per l'incapacità di capire il potere, di servirlo, come di combatterlo. Siete più vecchi di me, persi dietro un sogno tanto distante dal trono quanto dal fango dei pezzenti. Mi disgustate e vorrei avere lo stomaco di un tempo, ma l'ho perduto lungo la strada che mi ha portato fino a qui. Gli anni non rinforzano lo spirito, lo indeboliscono, e finisci col guardare negli occhi gli avversari, col guardarli dentro, per vederci il vuoto, la miseria dell'intelletto, e scoprirti disposto a graziare la stupidità. Nel mezzo. Fino a quando gli occhi sono ancora buoni a qualcosa. Fino a quando scopriranno che la fede ti sta abbandonando e che ormai solo ubriaco riesce a calare la mannaia, come un vecchio boia annebbiato.